Lo sciopero è durato 6 giorni consecutivi. Il problema nasce a radici abbastanza lontane. Diciamo che per stare più sui giorni nostri, noi andiamo avanti da circa un anno con dei problemi legati al riconoscimento dei nostri stipendi in virtù di problemi aziendali dal punto di vista economico-finanziario. Insomma, l'attuale editore che ha preso l'azienda da quello precedente si è trovato a dover ripianare debiti anche dal punto di vista fiscale, ovviamente ereditati dalla gestione precedente. Questo ha portato a tutta una serie di adempimenti anche burocratici con l'Agenzia delle Entrate per poter trovare, diciamo, un piano di ristrutturazione del debito, e queste trattative con l'Agenzia delle Entrate sono andate molto di lungo, diciamo così, finché prima di Natale è arrivata l'omologazione da parte del Tribunale di questo piano di ristrutturazione del debito. Nel frattempo noi per tutto l'anno abbiamo avuto grossi problemi dal punto di vista del pagamento degli stipendi, per cui a inizio anno siamo stati quasi tre mesi senza ricevere la retribuzione, che poi è stata recuperata a rate nei mesi successivi, dopodiché da agosto in avanti abbiamo cominciato con questo pagamento di nuovo a rate, quindi un po' a spezzatino dei nostri stipendi, un pezzettino ogni mese, finché siamo arrivati ad adesso. Appunto, l'omologazione da parte del Tribunale è arrivata. Palazzo Chigi, che aveva sospeso la convenzione con l'Agenzia Dire a marzo dell'anno scorso in attesa dell'omologazione del piano, ha riattivato la convenzione a gennaio. La Premier Meloni stessa, nella sua conferenza stampa di inizio anno, ha sollecitato l'editore nostro a ripianare tutti gli stipendi pregressi, però dall'inizio anno ad oggi di fatto l'azienda non ha proposto, diciamo, una soluzione a stretto giro. Era sempre molto dilazionato come nei tempi, alcuni impegni che aveva preso con i lavoratori non sono stati rispettati subito, e quindi noi siamo arrivati, diciamo così, forti anche di un mandato unitario dell'assemblea di redazione a decidere per questa azione molto, molto dura, che al di là dello strumento dello sciopero a oltranza, che è effettivamente molto molto intenso, secondo me ha premiato anche il fatto di essere stati tutti uniti su questa vertenza. Insomma, abbiamo avuto appunto un mandato molto forte dall'assemblea come CDR, e questo ha un po' scardinato anche le resistenze dell'azienda, che ha accettato di sedersi al tavolo, e adesso abbiamo avviato questa trattativa. E in questi giorni, questo inizio settimana, avete avuto incontri con la proprietà ed è partita una trattativa. Su cosa era concentrata? Sul pagamento degli stipendi? Esatto, la trattativa si concentra sia sul recupero degli stipendi arretrati che ancora ci devono essere riconosciuti, sia sulla regolarizzazione degli stipendi da qui in avanti, sostanzialmente. È una condizione che ha posto anche il sottosegretario all'editoria, Alberto Baracchini, che abbiamo incontrato nelle settimane scorse, ha fatto anche una nota pubblica sollecitando di nuovo l'editore a risolvere il problema, diciamo così, mettendo anche sul piatto il fatto che se l'azienda non riconosce gli stipendi, non regolarizza la situazione, potrebbero ingenerarsi anche dei nuovi problemi dal punto di vista della convenzione con Palazzo Chigi, per cui il sottosegretario l'ha detto chiaramente: noi potremmo avviare le procedure per verificare se non sia necessario interrompere di nuovo il servizio oppure no. Questo significa per l'agenzia Dire, ma in generale per tutte le agenzie di stampa che si basano molto sul contributo del Dipartimento dell'Editoria, per l'agenzia Dire significherebbe andare incontro, insomma, diciamo, a un punto forse di non ritorno. Queste trattative finora hanno raggiunto qualche punto? Sì, ci stiamo incontrando già da lunedì, stiamo cercando di raggiungere un punto di caduta comune, ovviamente su un recupero degli arretrati e su una stabilizzazione delle retribuzioni che sia il più rapido possibile, perché le persone, i lavoratori, le lavoratrici di questa azienda sono in grossa difficoltà. Parliamo di un anno passato con stipendi a singhiozzo, con mesi senza ricevere niente, quindi le famiglie anche sono ovviamente preoccupate, anche in grosso affanno dal punto di vista economico. Insomma, c'è chi ha maturato dei debiti, chi deve saldare delle cose, insomma, sono bollette da pagare, rette degli asili da saldare, quindi ovviamente le persone dopo un anno di tutta questa sofferenza sono arrivate, diciamo così, proprio alla fine, e quindi è necessario che l'azienda faccia un passo, dia un segnale concreto per dare ossigeno alle persone che ormai non ce la fanno più. Superato questo scoglio, sappiamo che l'editoria in generale non se la passa benissimo, però avete prospettive per, come dire, un rilancio poi anche dell'azienda, del vostro lavoro? Noi lo auspichiamo, questo chiaramente spetterà alla proprietà definire un piano di rilancio dell'azienda. A parole l'editoria, ha detto che ha grandi progetti, però al momento noi, a parte che insomma in questa situazione è difficile vederli, quindi diciamo così, andando per step, la priorità è sicuramente risolvere la questione degli stipendi. Questo darebbe tranquillità alle giornaliste e ai giornalisti da dire, oltre che ai grafici, e questo permetterebbe anche di impostare un lavoro sereno per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Noi abbiamo ancora una traversata nel deserto che è ancora un po' lunga, molto probabilmente, perché al netto di raggiungere l'accordo con l'azienda adesso, poi dovremo comunque tornare dal sottosegretario per fare il punto anche con lui, però diciamo che la regolarizzazione degli stipendi, visto l'ammontare degli arretrati che abbiamo maturato, ci vorrà ancora qualche mese prima di vedere davvero una stabilizzazione da questo punto di vista. Ci auguriamo che, passata questa fase, che ci ha visto davvero arrivare sull'orlo del baratro, risalendo piano piano la china, riusciamo poi anche a rilanciare l'agenzia, che comunque abbiamo visto anche dagli attestati di solidarietà di questi giorni è riconosciuta da tanti, da tutti. Ci auguriamo davvero che ci sia un futuro di rilancio di questa agenzia, anche perché i lavoratori e le lavoratrici, questo lo voglio ricordare, ci tengo, in questo anno di difficoltà hanno sempre garantito la produzione del notiziario, sempre regolarmente, sempre di qualità, nonostante le difficoltà e nonostante i mesi passati senza stipendio. Quindi diciamo così, meritano anche loro piano di rilancio vero di questa agenzia.